Il numero 4. Il quarto passo è legato alla solidità della materia. Portare ordine e coerenza nel mondo accettando le responsabilità che questo compito comporta. Siamo nel chakra del cuore, dove sperimentiamo l'espansione e l'apertura all'amore, curando le sensazioni che ci procurano dolore e lasciando spazio al perdono. Nei tarocchi siamo in presenza della lamina dell'imperatore che ci insegna la stabilità, il dominio su noi stessi, l'equilibrio e la gestione del potere. Se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi, al di là del precetto religioso patriarcale, la quarta virtù cardinale è la temperanza, moderatrice tra gli eccessi e promotrice di armonia, equilibrio e guarigione. Il peccato capitale che le corrisponde è l'avarizia, la quale ci fa trattenere e accumulare, allontanandoci dalla condivisione e rompendo il flusso del dare e del ricevere dell'amore. La domanda per le nostre maestre è che cos'è il potere e come si manifesta? Hadewijch afferma che il quarto nome dell'amore è il fuoco, che brucia gli amanti nell'unione e li trasforma, come la fenice che rinasce dalle sue ceneri. Il fuoco per la Minne, la signora Amore, si è acceso dentro di noi e non può più fermarsi. Ne parleremo più dettagliatamente nel prossimo passo. Esso è una forza che vince su di noi, alla quale possiamo solo arrenderci. Il potere dell'amore che tutto vince è inaudito da comprendere, vicino a chi erra, lontano da chi sa. Sfuggirle è impossibile, bisogna andarle incontro. È innalzata la mente che ha ricevuto la forza d'amore, è così elevata che attraverso il suo potere ne intenderà il verdetto. La forza dell'amore è la debolezza del forte. Ora badate voi, saggi, quanto sia grande la potenza d'amore. Detiene l'onnipotente scettro su tutto ciò che Dio ha creato. Lei stessa lo ha portato alla morte. Di fronte all'amore non v'è alcuna difesa. Essere tutta annientata nell'amore, per quel che so, è la migliore delle opere che conosco. Anche se so di non essere pronta, se si affronta l'amore con desiderio, del tutto privi di cuore e mente, amore distrugge il desiderio. Col desiderio, con questa forza, si trionfa in amore. Scrive Hadewijch. Per lei questo passo rappresenta il culmine da cui inizia la discesa verso il basso e l'oscuro, poiché l'alternanza di fruizione d'amore e mancanza diventa incontrollabile. E l'unione stessa con lo sposo divino è profondo abisso. Scrive infatti: in questa mancanza bisogna affondare. Questo è buono, altrimenti è troppo poco, veramente troppo poco ciò che si fa. In Beatrice, la quarta forma di amare Dio è l'alternanza burrascosa di estasi e sofferenza, in cui a tratti la Minne, la signora amore, si manifesta, infondendo nel cuore una forte passione. Il desiderio di intimità, di nobile libertà e di intenso godimento. L'anima diventa essa stessa questo amore immenso, ma il corpo soccombe, perdendo i sensi per lo sforzo che questo incontro richiede. Sia Hadewijch che Beatrice mettono bene in risalto quanto ancora la dualità sia insita dentro di noi e come queste forti passioni portino grandi agitazioni e sconvolgimenti in tutto l'essere. Nel quarto stato di grazia del miroir, lo specchio delle anime semplici, l'anima trova ristoro, diletto ed elevazione nella meditazione e nella contemplazione di Dama Amore, ricercando silenzio e solitudine. L'atteggiamento di supplica e di richiesta nella preghiera denota la presenza della volontà individuale, perché l'intento della meditazione è soltanto uno, l'amore leale e incondizionato. Per imparare la meditazione dell'amore, spiega Marguerite, l'anima ha sempre più chiaro che non può volere niente per sé se non ciò che Dio vuole per lei, e questo le provoca gioia e piacere, ma anche attaccamento alla vita spirituale e compiacimento dei propri traguardi personali, come suggerisce anche la yogini Magchig nel suo Jichyod Yul, di cui lasciamo in descrizione il link della lettura sul canale della Scuola delle Donne. Qui ci si illude di essere arrivate alla cima, perché Dama Amore inganna chi si lascia accostare dalla sua dolcezza e dal suo godimento. Cito dal miroir: Non c'è da meravigliarsi se tale anima è sopraffatta, poiché amore grazioso la rende del tutto ebra, così ebra da non permetterle che di tenere a lei per la forza con cui amore la diletta. Lo spirito è tutto pieno di volontà spirituale e nessuno può vivere di vita divina finché ha volontà, né essere appagata se non ha perduto la volontà, e lo spirito non è perfettamente morto finché non ha perduto il sentimento dell'amor proprio. E finché non è morta la volontà che gli dava vita. In questo stato di grazia siamo ancora legate alla vita spirituale, spiega ancora Margherite, perciò alla volontà individuale. Ci dedichiamo alla vita dello spirito perché amiamo i doni offerti dal divino. Come coloro che Margherite definisce mercanti, ricerchiamo sempre il guadagno estremo con il minimo sforzo, senza tener conto delle conseguenze. Come gli asini, siamo appagate dal giudizio delle nostre opere buone e cerchiamo consolazioni spirituali nella rappresentazione materica. Come i bambini mai cresciuti, ci accontentiamo dei nostri affetti spirituali senza scavare in profondità. Come i servi e le schiave, preferiamo i nostri timori e le nostre preoccupazioni quotidiane alla libertà. Dice Dama Amore. Non è libero chi vuole qualche cosa, qualsiasi cosa voglia, con la propria interiore volontà, ma è libero soltanto chi è governato da fede e amore, che la sottraggono ad ogni schiavitù, senza che tema più le cose terribili e che desideri nessuna delle dilettevoli. E ancora, l'anima che languisce d'amore fa guerra ai vizi, acquistando virtù. Le quarte mansioni del castello interiore di Teresa sono stanze meravigliose, ma indescrivibili per l'intelletto. Le poche creature nocive rimaste non sono più di alcun danno per l'anima, anzi l'aiutano a mantenere vigile l'attenzione sul percorso. Come abbiamo visto anche nel Miroir, l'orazione porta ai diletti spirituali che il divino invia all'anima per dilatarne il cuore, come una sorgente che sgorga con pace e dolcezza dal profondo di noi stesse. Questi momenti sono dei doni immensi e inaspettati, e in essi l'anima riceve grande gioia dalla sospensione involontaria della razionalità, senza alcuno sforzo e senza alcuna azione. Inizialmente l'anima, dubbiosa e incerta su ciò che le accade, scambia per cattivo ciò che è buono e pensa di illudersi o di sognare. Le inquietudini e le sofferenze legate all'immaginazione e al pensiero sono costanti e spesso angoscianti. Successivamente, la pace che deriva da questi momenti spinge l'anima a desiderarli sempre di più, perciò cerca il silenzio, il raccoglimento e la solitudine. Qui è necessario lasciare operare i talenti divini e dimenticarsi di sé, senza aspettative e senza controllo, nell'amore profondo e disinteressato verso Sua Maestà. Teresa descrive due tipi di orazione, l'orazione di raccoglimento e l'orazione dei diletti divini. La prima è la base per raggiungere la seconda e tramite questi esercizi l'anima si dilata, facendo sparire ogni timore per lasciare spazio alla fiducia e alla sopportazione di ogni prova. Nel commento al castello interiore, Edith Stein mette in luce che la quarta dimora è un passaggio. Se finora abbiamo scandito i passi del sentiero ad un ritmo tutto nostro, da qui in poi sarà la divinità a condurci nel cammino. Ciò che dobbiamo imparare è custodire i nostri sensi e fidarci della nostra immaginazione. In questo quarto passo, la conoscenza di sé che ci ha attratte all'inizio del percorso diventa preghiera e meditazione cosciente. La presenza a noi stesse e l'intento chiaro sono fondamentali per percepire come si manifesta l'amore dentro e intorno a noi. Le nostre guide ci spiegano che ancora oggi la percezione sociale e culturale del potere è totalmente distorta perché legata al possesso, all'accumulazione, al valore quantitativo e all'autoimportanza. Siamo addestrate ad ostentare la nostra ricchezza come opulenza e ci dimentichiamo che l'abbondanza non può essere un concetto individuale, ma solo collettivo. Il nostro potere personale non può avere nessuna utilità se lo esercitiamo a scapito di chi ci circonda. Ciò che noi percepiamo come potere, in realtà è l'amore stesso, Esso perciò non arriva da noi e non è nostro, non ci può essere possesso, ma soltanto fruizione. Come ben ci insegna Advaith, questa fruizione arriva da sé nel momento giusto, senza regole e senza forzature. Teresa e Marguerite suggeriscono inoltre che la fruizione dell'amore avviene tramite l'ascolto, la contemplazione e il silenzio che permettono ai nostri sensi di sperimentare sensazioni più intense e profonde, aprendoci a quell'immensità che ci respira dentro. L'amore è l'essenza suprema e lo scopo di tutto il percorso è proprio quello di diventare noi stesse quest'essenza, elevandoci alla vibrazione della creazione.